La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. La fotografia era già una parte di me, ma non la coltivavo. Per me la fotografia è una forma di vita, un modo di vivere. È la mia vita. Qualche volta le persone mi dicono che sono un giornalista perché con le mie foto racconto. Sono un fotoreporter. Oppure dicono che io sia un fotografo attivista perché racconto lo stato in cui versa la nostra terra. Oppure alcuni mi dicono che sono... cioè, mi chiamano economista fotografo. Ma sono tutte definizioni non vere, non giuste. Per me la fotografia è semplicemente la mia vita, la mia forma di vita. Questa è la prima volta di Sebastião Salgado, uno dei fotografi più importanti al mondo. Nato l'8 febbraio del 1944 in una fattoria brasiliana di Aimores, Salgado sarà un bambino libero, abituato a correre fino al limite, il punto in cui la campagna incontra la foresta. Lì, coi suoi amici, Salgado fantastica di un mondo di persone, animali e piante. Un mondo che Salgado racconterà poi nelle sue fotografie. Ero un bambino libero. Ero soprattutto un bambino libero. La fattoria di mio padre si estendeva per un chilometro ed era tutto a mia disposizione. Uscivo la mattina e tornavo la sera. Nelle fattorie si viveva così. I contadini, i fattori, lavoravano. Vivevano in una comunità di adulti e noi bambini eravamo un'altra comunità. Stavamo insieme, gruppi di bambini, sempre in giro a fare avventure, liberi. Quella bellissima, enorme libertà era la cosa più bella che avessi. Quando a 16 anni andai alle superiori, mi dovetti trasferire in una città più grande. Quello fu un momento molto forte, una sorta di dolore, anche se sapevo di avere una grande opportunità, che era quella di poter continuare a studiare. Sapevo infatti che stavo per allontanarmi dal mio paradiso. To do second part of my secondary school was a big change of my life, but till this time I grew in a paradise. La libertà di Salgado, quel correre da mattina a sera per le campagne, sarà il segno profondo che il ragazzo porterà con sé quando andrà a Victoria, una città più grande dove ormai sedicenne andrà a vivere per continuare le scuole superiori. Il ragazzo è intelligente e a scuola ha voti alti. Gli insegnanti lo sostengono e i genitori lo aiutano a procedere con gli studi. Sebastião ha un percorso da grande economista davanti, ma in fondo a sé, come dirà lui stesso, resta sempre quella malinconia per gli spazi aperti e per la libertà vissuta nell'infanzia. Gli anni dell'Università di San Paolo saranno anni di attivismo politico, ma saranno soprattutto gli anni in cui Sebastião incontrerà Leila, la donna della sua vita, la persona, come dirà lui stesso, più importante della sua vita. La sua amica del cuore, la donna che lo appoggerà nei progetti che poi porterà avanti. The most important thing of my life happened also in this time. I met an incredible girl that became my best friend all my life long, and that my associate in everything that I did till now. My wife, Lélia Wanik Salgado. Chimbala, yeah, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. È il 1967. Sebastião Salgado ha 23 anni. Si sposa con Leila, il grande amore della sua vita. Nella loro vita, dirà Salgado, si sono sostenuti e spinti alla felicità. Ancora ventenni, Sebastião e Leila si trasferiscono a Parigi e poi a Londra, dove Salgado lavorerà come economista per l'Organizzazione Internazionale per il Caffè. Viaggia e va più volte in Africa, ed è in quei viaggi che si compie la decisiva trasformazione. Well, I start very late. Before to be a photographer, I was an economist. I work as an economist, and I start photography when I was 29 years old. Ho iniziato a fare il fotografo molto tardi. Prima ero un economista. Avevo studiato economia e statistica. Ho iniziato a fare foto a 29 anni. Era il 1973. Ho fatto un viaggio in Africa e lì ho deciso di diventare fotografo. Well, there is a lot of time there after 41 years now that I'm doing photography, but I started when I was 29. E perché ha deciso di diventare fotografo? Cioè, che cos'è che ha scatenato questa sua scelta? Perché ormai lei aveva un futuro davanti come economista, aveva già un lavoro assicurato, era sposato, viveva in maniera agiata. E invece che cos'è che l'ha portata a prendere tutt'altra decisione, a abbandonare l'economia, il lavoro e decidere di andare incontro a qualcosa di così nuovo, anche difficile, no? da portare avanti come la fotografia? Era proprio il suo sogno? Perché ha preso questa decisione? C'è stato qualcosa che ha determinato questa scelta? Well, do you know, I discovered photography very late. I was in Paris doing a PhD in economics, the preparation for a PhD, doing all my theoretical studies, and when I discovered photography. And photography made a total invasion in my life. Beh, come ti ho detto, ho deciso tardi. Avevo davanti una carriera da economista. La fotografia era già una parte di me, ma non la coltivavo. Dunque avevo 29 anni. Stavo studiando per una specializzazione a Parigi. Finisco i miei studi di specializzazione a Londra e inizio a lavorare come economista. Un lavoro per il quale viaggiavo anche molto. Inizio a viaggiare in Africa, faccio tanti viaggi e accade che la fotografia mi esplode dentro, come una totale invasione della mia vita. Cosa succede allora? Torno in Europa e scopro che le mie foto mi danno più gioia, più soddisfazione di un qualsiasi report economico. Anche chi vede le foto prova lo stesso. Allora ho capito che ero sulla strada giusta. In un mese ho preso la decisione. Ho deciso di fare il fotografo e ho iniziato. Ho iniziato e non ho più smesso. In a moment I take a decision to abandon everything to become a photographer. And I started that in 73, as I said. La prima volta. In a moment I take a decision to abandon everything to become a photographer. I started that in 73, as I said. È il 1973. Sebastião Salgado è un giovane economista, sposato con Leila, la donna della sua vita. I due hanno già fatto un lungo viaggio da San Paolo in Brasile fino a Parigi, dove ora vivono. La loro è una vita agiata. Sebastião, dalla fattoria, nel cuore della foresta brasiliana, ora si ritrova in una città, Parigi, a vivere una vita da giovane rampante economista per un'organizzazione internazionale. Però qualcosa fino in fondo non gira. Well, I start very late. Before to be a photographer, I was an economist. Avevo davanti una carriera da economista. La fotografia era già una parte di me, ma non la coltivavo. Dunque avevo 29 anni. Stavo studiando per una specializzazione a Parigi. Finisco i miei studi di specializzazione a Londra e inizio a lavorare come economista. Un lavoro per il quale viaggiavo anche molto. Inizio a viaggiare in Africa, faccio tanti viaggi e accade che la fotografia mi esplode dentro, come una totale invasione della mia vita. Cosa succede allora? Torno in Europa e scopro che le mie foto mi danno più gioia, più soddisfazione di un qualsiasi report economico. I bring with me a camera, and when I came back to London, my pictures gave me much more pleasure than the economic reports that was necessary to me to write. In a moment I take a decision to abandon everything to become a photographer. E i suoi genitori che cosa dissero allora di questa decisione che prese? Sicuramente sua moglie la deve aver sostenuto questa decisione, ma i suoi genitori, che avevano appunto fatto fatica anche per farla studiare, cosa pensarono della decisione di abbandonare tutto, questo lavoro, la carriera da economista, e iniziare a fare il fotografo? Che cosa le dissero? Well, do you know, I born in very interior of Brazil. Today is no more, but when I born, all was jungle and we are quite isolated. Dunque, per rispondere a questa domanda, devo spiegarle dove sono nato io. Sono nato in un piccolo paese dell'interno del Brasile. Oggi c'è meno foresta attorno, ma quando ero piccolo eravamo immersi nella foresta. La nostra casa era isolata. Attorno, la foresta amazzonica. Era un posto speciale, un posto bellissimo. Il mio posto preferito ancora oggi, che non c'è più. Ho goduto di una straordinaria bellezza e di una straordinaria forza che la natura mi mostrava ogni giorno. Ero immerso in questa totale bellezza e credo che lì, in quei giorni d'infanzia, sia nata la mia passione per la fotografia, anche se ancora non lo sapevo. Credo che scegliendo di fotografare, di fare il fotografo, io abbia deciso di portare sempre con me quella parte di me. E così facendo ho portato simbolicamente in ogni viaggio mio padre e mia madre. I miei genitori poi erano persone che stavano dalla mia parte. In ogni scelta che ho fatto loro erano dalla mia parte, nelle mie idee politiche e nelle mie scelte di vita. Loro erano con me. Of my ideology, everything I bring with me. When you do a photography, we do it all then together. Salgado, nel giro di poco, diverrà uno dei più grandi fotografi al mondo. Prima lavorerà per le agenzie fotografiche Sigma, Gamma e Magnum. Poi, assieme alla moglie, darà vita a una propria agenzia. In questi anni, Salgado viaggerà, soggiornerà a lungo con gli Indios, racconterà la loro storia. Lo stesso farà in Africa e in altri luoghi dell'America Latina. Well, in reality, photography, as I said, is my way of life. Is what I believe. It's what I think. And is a kind of what's a language. It's my language, photography. And when I go to do a story, I spend a long time. The show that will be presented here in Trioki is 8 years. Ma sa, nella realtà una foto deve parlare un linguaggio. Io ho un mio linguaggio nella fotografia. Per quanto mi riguarda, so che per fare una bella foto bisogna spendere molto tempo della propria vita nel luogo che si vuole fotografare. Ho vissuto anni nei posti che ho raccontato. Quando sento di aver raccolto la storia, di essere riuscito a raccontarla, allora sento che è arrivato il momento di andare. Posso tornare e trovare un nuovo mondo. Allora vado e torno. Vado per vedere, per sentire, per fotografare. I transmit through my cameras what I'm feeling in my life. La fotografia è il mio linguaggio. Cerco questo nelle foto. Un linguaggio che mi permetta di vedere un luogo, di sentire che quella persona è andata, guardato, visto e sentito qualcosa. Non sono mai partito per un posto con l'idea di dover fare questa o quella fotografia. Io vado a vedere, viaggio, incontro, imparo e porto con me la mia macchina fotografica e le trasmetto quello che provo. Pochi giorni fa a Venezia c'è stata l'inaugurazione di una sua nuova mostra. Che cosa si aspetta dalle persone? Saranno tantissime che verranno a vedere le sue foto, le foto di questa mostra. Cosa pensa che potrebbe accadere in chi vede queste foto? O soprattutto, lei che cos'è che vorrebbe accadesse a chi guarda le sue foto? Well, I have a big hope that the person that come to see his own planet. Do you know, live in big towns as Rome, as Milano, as Venice, as big towns around Venice. Ho una grande speranza, una speranza gigantesca, ed è questa. Le persone che verranno qui a vedere la mostra a Venezia verranno da Milano, Torino, Roma, verranno da altre città, ma saranno tutte accomunate da una cosa. Siamo tutti cittadini di questa terra. Ecco, vorrei che la gente sentisse questa cosa, che sentisse il proprio pianeta come la propria casa. Vorrei che capissero quanto è importante e meraviglioso il nostro pianeta. Vorrei che capissero quanto sono importanti tutte le parti che compongono il nostro pianeta. I minerali, gli alberi, gli animali. Inoltre vorrei che sentissero che la felicità, la vera felicità, si raggiunge quando si è in equilibrio con il nostro pianeta. Ecco, la mia speranza è che la gente che viene a vedere la mostra entri in un modo ed esca in un modo differente. Vorrei tanto che chi esce da questa mostra potesse partecipare o sostenere chi davvero si sta battendo per salvare il nostro pianeta. Soprattutto vorrei che spiritualmente ognuno di noi avesse più amore per questa terra, che dobbiamo proteggere. Dobbiamo salvare tutto ciò che ancora non abbiamo distrutto. Dobbiamo batterci per salvarlo. Ho questa grande speranza, le dicevo, ed è che tutti insieme, camminando in un'unica direzione, possiamo proteggere il pianeta, quella parte non ancora distrutta dalla devastazione. Questa è la mia speranza. Vorrei che i visitatori della mostra entrassero in questo gigantesco movimento. And my hope as the person that come to see the show come out of the show in different way, respecting more the planet and who knows trying to put himself more linked with the planet spiritually, respecting more the planet. We must protect this part of the planet that was not destroyed, that is about the show. The show is about what is pristine in the planet yet. And I have a big hope that we together, all together, we can work in a way that we must protect this part of planet that we do not destroy yet. It's my hope that the people that come from here participate in this big, big movement to protect the planet. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. La storia di Leila e Sebastião è una storia d'amore lunga, bella, dalla quale sono nate tante cose buone. Forse una di queste, la più importante, è l'Istituto Terra, un centro sorto nello stato di Minas Gerais, in Brasile, dove Salgado era nato. L'Istituto Terra ha riconvertito a foresta equatoriale tutta una zona che era a rischio. Grazie a Leila e Sebastião sono stati salvati migliaia di alberi, animali e persone. In un tratto di mondo in cui la foresta era destinata a scomparire, Sebastião Salgado e sua moglie hanno riportato vita e bellezza. Questa è una prima volta che più di ogni altra ci piace raccontare, la prima volta in cui una foresta rifiorisce grazie alla forza di due uomini. La prima volta termina qui. Vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento sempre a domenica, sempre alle 13.30. Se volete potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona domenica a tutti, da Cristina Carpinelli. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar.